Aspetta che, ecco, adesso racconta Ecco, pure. l'8 settembre del 43 siamo partiti da Spezia, Sì. tutta la squadra, Sì. navi grosse e le quattro corazzate, e siamo andati alla Maddalena. Sì. Alla Maddalena siamo fermati lì, perché Perché vi siete fermati? dovevamo, lui Bergamini voleva entrare in Sardegna, ma ha ricevuto l'ordine che la Sardegna era occupata dai tedeschi, Ah, non potevate capito? entrare. Non potevamo, ci siamo fermati fuori, tutti fermi, le Sì, navi fuori, fuori. al Golfo del Leone, È un insomma. Allora, tatuaggio, un papà? bel momento, è arrivato l'aereo Del tedesco, tedesco? capito? Che c'aveva la famosa bomba, non sembrava, quella famosa bomba che lanciavano su Londra. Ai Insomma, missili. era quella bomba, era come radiocomandata. Sì. Ha preso il fumaiolo dalla Roma, è andato giù, è scoppiato alla Santa Barbara. Scoppiando la Santa Barbara, cosa fa? Che la nave si Esplose. è sbandata. C'era le corazzate, avevano un aereo di ricognizione che lo lanciavano e non poteva rientrare. Andava poi alla base. Sì. Allora, lo fa? Un bel momento è arrivato questo aereo tedesco, ha preso, come ti ho detto, la Santa Sì. Barbara, così la Roma si è sbandata. Sbandando, la gente era tutta a poppa, no? Sì. A poppa dalla nave. C'era la catapulta Sì. dell'aereo, c'era Ok. Sì. la catapulta si è sganciata, è sbandata così, ha buttato tutta la gente a mare. Mamma mia. Una parte li ha uccisi, una parte sono andati a mare, così, Ma non capito? erano tu eri su quell'altra nave. Eh? Tu eri su quell'altra Ma io ero nave. sul legionario. Noi eravamo lì a fianco, ciao, sei in capo al mondo. E così, poi dopo un bel momento, è arrivato gli inglesi, ci siamo accodati alle navi inglesi E e dove abbiamo siamo portato? andati a Malta, tutti a Malta. Prigionieri. Insomma, eravamo prigionieri, tutti a Malta, prigionieri. Abbiamo seguito le navi inglesi. E così siamo andati a Malta. A Malta siamo stati fermi 2 o 3 giorni. Dopo eravamo solo noi e il carabinieri, due caccia che c'è, due. Ok. Noi e il carabinieri. Mentre arriva l'ordine di andare a Orano. Ah? Di andare a Orano, andiamo lì, a Orano cosa fa? Dov'è Orano? Ma a Malta sempre? No, siamo andati dopo, Ah. siamo andati a Oran, nella costa di qua, ad Algeri, Ah, ok. siamo andati ad Algeri. Algeri, arriviamo lì, un bel momento arriva una bettolina, ci hanno fatto scaricare tutte le munizioni, scaricate le munizioni. Dopo scaricate le munizioni arriva un camion, e cosa fa? C'era la farina. Allora abbiamo sbarcato la farina, tutti a bordo, facciamo da mangiare, facevamo le tagliatelle, Sì. capito? Allora poi noi facevamo la missione, facevamo Algeri e la Sardegna, a rifornire i partigiani francesi, capito? In Sardegna o in Corsica? Eh? In Sardegna o in Corsica? In Ah, Corsica, in in Corsica. Corsica, Francese, hai detto. in Corsica, mi sbagliavo. Arrivavamo alle 2 di notte, chissà, venivano i partigiani, sbarcavamo le Ah, sì. munizioni per rifornire i partigiani. E facevamo quella missione lì, Ah, sì. facciamo Algeri, Quindi vi Orano. mandavano voi a fare il I lavoro. tedeschi erano lì, sennò che non c'era, i tedeschi non avevano più una gran forza, capisci? Allora facciamo quelle missioni lì. Mamma mia. Però si trattavano bene come prigionieri. Poi ogni tanto se andavamo a Gibilterra, Ok. mi portavano a fare il riposo a Gibilterra, A capisci? riposo, a divertirvi. Stavamo un mese lì a Gibilterra, in modo che fa. noi marinai normalmente a 20 anni avrei bisogno di altre cose. Quello che lì non c'era, capito? Ah, io ho capito. Con le spagnole, capito? Ah, ho capito. E facevamo quei viaggi lì. Poi dopo, che è venuto l'armistizio, siamo rientrati ad Algeri, siamo andati a Palermo. E da Palermo, cosa fa? Normalmente sono stati fermi 3-4 giorni, il comandante ha sbarcato i siciliani che andavano insieme. Sì. Erano 2 anni che io non sapevo niente di qua della famiglia. Poi dopo da Palermo siamo andati a Taranto. Poi da Taranto cosa è successo? Ma la nave è stata requisita? La nave che fine ha fatto? Sempre legionata. Però non è stata data... No, noi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo fatto tutta la guerra, mai stato, abbiamo avuto 3 feriti, però. 3 feriti soltanto. Allora normalmente siamo andati a Taranto, poi a Taranto cosa fa? Siamo andati agli incendi, quelli del nord. Allora la nave cosa fa? È arrivata fino a Ancona. Sì. Però da Ancona a Bologna la ferrovia non andava. Allora siamo andati a Ancona, ti hanno messo sulla strada in autostop a fare l'autostop. L'autostop, sono arrivato a Rimini, il primo autostop. A Rimini sono fermo lì, per fortuna si spostava una cosa di soldati. Una colonna. Una colonna di soldati che andavano a Verona. Ma tu eri sempre in divisa? Sempre in divisa, sergente, era sergente. Sì, sì. In divisa, capisco? No, lo zaino, eccetera. Allora quando sono arrivato sul ponte, dico allora mettetemi giù. E da lì poi sono venuto piano piano sull'argine, sono venuto a casa. Arrivato al ponte c'era tutto l'argine rotto. Era tutto distrutto tutto bombardato, qua. Capito? Allora poi piano piano sono arrivato a casa. E a casa li ho trovati qua. Ma allora... stavano lì dai nonni. Lì dai nonni, lì. Ma dove? Prima c'era la torre. Sì. Mio nonno aveva 2 case. E il mio genitore, la mia casa, è stata colpita. Sì. È stata bombardata. Allora, mio nonno ha dato l'alloggio a mia mamma, eccetera, capisci? E abitavano lì. E hanno abitato lì finché non abbiamo fatto la casa qua. Ah, sì. Fino al 52, capisci? Il 52, mio padre... Ho portato tutte le pietre. Di qua? Tutte le pietre, 130.000 pietre appositte. E con la nostra, quella casa lì è fatta con le pietre della casa vecchia. Con quei pietroni grossi, lunghi. Fatto con quella pietra lì. E così. E poi dopo io sono stato a casa un mese così, poi dopo ho ripreso, sono andato di nuovo a bordo al legionario. E poi di lì facevamo, andavamo con la nave, andavamo a Caifa, perché le corazzate erano ai laghi a mare, avevano portato i laghi a mare in Egitto, no? Uh-huh. In Egitto c'è il canale, poi dopo un certo punto c'è un lago e lo chiamano il lago a mare. Poi c'è l'altro tratto che va in Atlantico, diciamo così. La Caifa sì. Mar Rosso. E portavamo alle corazzate, portavamo il vino. In Egitto. Ci portavamo da bere il vino e cose lì. Questo era già dopo la guerra. Dopo la guerra. Perché dopo poi si è imbarcato solo la corvetta Folga. Sono andato al dragaggio a fare il dragaggio a Monte Cristo. L'isola di Egilio, dove è andato a fondo lì. La schettina. 2 anni siamo stati lì. Ma a dragare le mine? A togliere le mine. Ma se esplodevano? Il dragaggio, eravamo in 12 corvette. E qualcuno esplodeva? Esplodevano ogni tanto? Cosa fa? Che noi avevamo un cavo, un maiale, lungo 4 metri, e c'era l'accesoio. Okay. Che quando trovavo il cavo della mina, tagliavo il cavo e la mina veniva a galla. Capisci? Ah, era per il calore. E lì si davano 5 lire al giorno in più di supplemento all'ora. E allora con 5 lire andavi a mangiare. No? E lì a Portoferraio è stato 2 anni però, a fare quel lavoro lì. Ho capito. E dopo poi sono andato a fare il corso GP a Venezia, all'Accademia Venezia. Sono stato 6 mesi lì. E dopo sono rientrato, quando ho finito l'Accademia, a Venezia sono andato in Accademia a Livorno, sempre con mio cognato Lino. Cioè. Mio cognato Lino era sempre presso con me. Poi da lì ho fatto le altre navigazioni. Ma era piccolo Lino? Lino, Lino era, aveva 6 anni, nel periodo di vacanze. Sì, in vacanza. Veniva sempre con sua sorella. Ah, sì, perché sì. Perché la Clara era sua sorella. Sì, sì. Avevano 20 anni di differenza. Ah. 20 anni, ma lei era la Clara. 20 Ho capito. Grazie del racconto. Grazie del racconto. Veniva sempre con noi. Hai capito? Veniva sempre con noi. Adesso... poi dopo ho fatto gli altri tutto imbarchi, il resto. Fatto sul San Marco, ho fatto 2 anni, lui gli altri 2 anni, capito? Sul Garibaldi ho fatto 2 anni, e poi ho fatto la guerra di Trieste, finita la prima guerra, ho fatto la seconda guerra del 52-53. Ma non era una guerra vera e propria? Non era una guerra vera e propria, perché gli slavi non avevano navi, non abbiamo mai incontrato. Noi facevamo Bari-Trieste con il Garibaldi. Perché Trieste all'epoca era ancora sotto la Jugoslavia? Trieste. La Jugoslavia voleva Trieste, era il periodo della lotta. E noi facevamo Bari-Trieste, capisci? Avanti e indietro. Allora, durante il viaggio sparavamo. Però. Facciamo un'esercitazione, sparavamo con i cannoni. Ma loro non si arrabbiavano loro? Avevi i cannoni da 152. 152 fanno una gettata di 30 chilometri. Però. Mi potevi gettare. Ma loro non si arrabbiavano che voi facevate l'esercitazione? No, non si arrabbiavano, non abbiamo mai incontrato, capisci? Mai incontrato da fare. Però quello fa, c'era la lotta, sì. Volevano Trieste, e noi facevamo Bari-Trieste, capisci? Avanti Bene. Che avventura! Va bene, grazie allora nonno per questa storia. Dopo ho fatto il Duilio, mentre facciamo le esercitazioni tipo privato, capisci? Per esempio sul Duilio, una volta abbiamo fatto un'esercitazione di 15 giorni. Però! Con tutta la NATO, c'era tutta la NATO, capisci? C'erano i turchi, i tedeschi, i francesi, eccetera. Una volta l'ultima fatto 15 giorni però di filato, e quando è stata la volta che poi alle buone di faccio abbiamo trovato un mare che c'era pericolo di andare a fondo, capisci? Però per il mare c'era la retusa che era una torpediniera, una nave piccola che c'era a bordo Munari, sì, quella di Reggio Emilia, sì. Aveva un momento l'onda, si aveva sfondato tutto il corpo della plancia. La forza dell'onda? Tutta la plancia, c'è la plancia, no? Sì. Un momento, avevo sfondato la porta della plancia. Però. E l'acqua cosa fa? Faceva da sommergibile, praticamente. Però. E noi accostavamo in modo che l'onda non ci arrivasse a lei. Ah, perché voi eravate più grossi. Quindi la prendevate voi? La prendevate tutta voi? Sì, no, ma noi non so mai. C'era forte, ma la nostra nave andava ancora bene. Infatti c'era il nostro inglese, che anche lui è l'ingresatore, che chiedevano sempre posizione. Ah, sì. Perché a un momento andavi fuori rotta, capisci? chiedevano posizione. Però, perché noi eravamo il capo squadriglia di tutta la flotta, di tutta l'esercitazione. Tutta l'esercitazione. Di tutta l'esercitazione. Di pace, capisci? Sì, sì. Ma c'era ancora Bergamini? Erano due. Una parte era i rossi e una parte i neri. Ascolta, ma c'era ancora Bergamini a quell'epoca? No, no, Bergamini non c'era mica più. Bergamini è andato a fondo al 43. Ah, è morto Bergamini in guerra? È morto sulla nave, è andato a fondo con la Roma. Ah, sì. Con la Roma è andato a fondo perché allora sì. Era così. Il comandante doveva seguire la nave. È andato a fondo, però si poteva anche salvare, supponiamo voleva salvarsi. Mentre è stato un uomo d'onore, dai. Perché i comandanti hanno sempre la pistola, hanno una pistola in privato. Ma mentre succede qualcosa si sparano, capisci? E lui è morto con il suo equipaggio. Lui si è sparato, è andato a fondo con però, la nave. Insomma. E la nave è andata a fondo lì. Ah, ci certo, sono stati certo. Parecchio, più di 1000 morti. Mamma mia. Insomma, perché quelli che erano giù in caldaia, è scoppiata la bomba mia. Sì, sì. Tutti i fuochisti, quelli della macchina. Sì, sì, sì. Quelli che erano destinati lì. Ah, sì. Capito? E quelli che erano in coperta erano a poppa che lo fa la catapulta dell'aereo, sì, sì, sì, ha sbandato, sbandando ha buttato ha a mare tutto. La gente, quelli che ha fatto male è una cosa grave, capisci? E così è andato, e ci sono stati più di 1000 morti, mica uno. Infatti fanno sempre, ogni anno c'è, sì, sì, a San Felice, San Felice. E c'ha anche la sua via che c'ha, sì. Davanti dove abitavo, perché sì, è visto? C'è la, sì, sì, c'è anche la targa. È così. Va bene. La guerra è stata così. E poi il punto è stato Trieste. Grazie. Trieste c'è stato? Trieste, insomma, è stato più facile. Oh, sì. È più facile. Perché con la guerra noi eravamo sempre in prima linea là con le giornalie. Perché avevamo il radar, l'unico male è il radar di scoperto, ecco, come c'hanno nell'aviazione, visto nei campi d'aviazione. Stiamo ascoltando quello che ci dice il nonno. Nei campi d'aviazione c'è anche quel radar grande, sì? Quei radar. Sì? Che quando, e noi eravamo quel radar lì. Che, aspetta che stiamo cappava fino a 200-300 miglia. Ah, però. Però non ti dava le direzioni esatte, capisci? Mentre gli inglesi avevano i radar tiro, ma al momento venivano i colpi a bordo e non sapevi dove venivano, capisci? Perché allora accettavano lo scontro sempre di notte. Sempre di notte gli inglesi, capisci? È così. Va bene. Grazie nonno. È stata lunga mia. Diciamo grazie di questo racconto. È stata lunga. E tu vai a fare il marinaio. L'ufficiale vai a fare. Hai capito cosa ti ha detto il nonno primo? Mandalo a fare l'ufficiale. Ha detto di andare a una carriera sicura. Andare a fare il marinaio come ha fatto lui. No, sulle navi. Io non voglio. Vai sulla nave. No, no. Vai sulla nave. No, no. Là. Guarda su quella nave là. Ma che bella. Vai su quella nave là. È bella quella nave là. Lo dite non sono un navinaio. No, adesso no, quando sei più grande, quando sei un ragazzo grande. No, ma io sono una nave. Ma parlo no. Mi dici che quando sono diventato grande, no, adesso. Ci siamo stati a Lampedusa, abbiamo fatto un giretto. Volevo te così. Adesso spegniamo la registrazione. Ti giri, amore. Allora, dove andiamo, bimba? Bene. Aspetta che spiego, dai, la registrazione. Ma così, la mia gioventù è stata lì. Eo. Fino a 26. Un'avventura.